Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Partiamo da Seoul, capitale della Corea del Sud, città che io ho visto, ci ho passato una quindicina di giorni, e non è un granché la città, però ci sono delle cose belle. Per esempio il Museo Nazionale della Corea, è un museo bellissimo, il sesto museo più grande del mondo, e se vi capitasse per caso di andare lì, non fatevi scappare quello che viene identificato come tesoro nazionale numero 904, che dal 7 marzo dell'87 occupa un posto di enorme rilievo all'interno di questo grande museo. L'oggetto identificato con questo numero è un meraviglioso elmo greco di bronzo, risale al VI secolo avanti Cristo, è un manufatto straordinariamente conservato ed è di rara bellezza. È un elmo in stile corinzio, ha una classica protezione per il naso, per le guance, è alto 21 centimetri, è stato forgiato nel momento dell'apice, diciamo così, delle Olimpiadi greche, è stato scoperto da un archeologo tedesco, Ernst Curtius, nel 1875, è stato conservato per molti decenni in luoghi diversi, in Grecia e in Germania. Ma perché un oggetto dal valore incommensurabile, parte della storia occidentale, è finito in un museo coreano ed è definito tesoro nazionale? È perché questo elmo racchiude un mistero, il simbolo di una storia bellissima e commovente, fatta di passione, di patriottismo, di amore per lo sport, di lacrime, di sudore. È la storia del nostro protagonista di oggi, Ki Chung-son. È il maratoneta coreano che vinse la medaglia d'oro nelle Olimpiadi più famose della storia, sicuramente quelle più controverse, le Olimpiadi di Berlino del 1936. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Questo era l'audio originale della voce di Adolf Hitler in persona che inaugura le Olimpiadi di Berlino del 36, le Olimpiadi considerate ancora oggi le più incredibili di tutti i tempi, ne abbiamo parlato in varie occasioni. È il primo agosto del 36, il Führer, come un moderno Cesare, si affaccia dalla tribuna d'onore dell'Olympiastadion e dà il via agli undicesimi giochi olimpici della storia. In realtà tutto questo non avrebbe dovuto accadere, perché la decisione di tenere i giochi di Berlino era stata presa nel 31, quando la Germania era ancora una repubblica democratica, la Repubblica di Weimar. Dopo la salita al potere di Hitler, molte nazioni chiedono di cambiare sede, il Comitato Olimpico rifiuta la modifica e si fanno, e pensate che anche Hitler all'inizio era riluttante all'idea, poi però Goebbels, lo scaltro ministro della propaganda, forse il più grande ufficio stampa mai nato, gli fa capire una cosa elementare, che le Olimpiadi sono un'occasione ottima per veicolare nel mondo i fasti e i valori del nazismo e per mostrare a tutti la potenza della Germania. Le Olimpiadi sono sempre state uno strumento di propaganda politica, non si deve badare a spese. Ecco perché il Führer fa costruire impianti, strutture moderne, all'avanguardia, celebra peraltro l'occasione con un film propagandistico bellissimo della grande regista Leni Riefenstahl, alla quale abbiamo dedicato una puntata. Il film è Olimpia, è il più importante film mai girato sulle Olimpiadi, anche se ovviamente girato, diciamo, con degli stilemi ben precisi, l'esaltazione della bellezza degli atleti tedeschi, simbolo della superiorità, della presunta superiorità della razza ariana. E queste sono le prime Olimpiadi che vengono riprese dalla televisione. Il regime mette in onda il primo programma televisivo regolare al mondo e trasmette in diretta le gare. Naturalmente ci sono pochi apparecchi televisivi privati, quindi vengono create le cosiddette sale pubbliche televisive, e in diverse zone di Berlino tutti possono seguire le gesta degli atleti. Insomma, tutto questo porta a quella che viene definita l'Olimpiade perfetta, e in relazione, diciamo, ai tempi, sicuramente nessuno ha mai più eguagliato le Olimpiadi del 36, e il pubblico partecipa con un interesse senza precedenti. Arrivo a Berlino dall'Ellade, portata attraverso 7 nazioni e dopo un percorso di 3.000 chilometri della fiamma accesa a Olimpia. Dal dirigibile Hindenburg si può osservare l'intenso movimento che dalla porta di Brandeburgo conduce per l'arteria olimpionica mareggiante di folla sulla spettacolosa cornice di 150.000 persone festanti. E questo era l'audio originale, l'avete intuito, l'audio dell'Istituto Luce filmato sull'inaugurazione delle Olimpiadi di Berlino. Gli eventi vengono raccontati nei dettagli, viene descritto l'arrivo del Teodoforo dalla Grecia, dall'Ellade, come diceva lo speaker, si entra all'Olympia Stadium dopo un viaggio per tutta l'Europa. Bene, gli organizzatori naturalmente hanno molte ragioni per rendere enfatico tutto ciò, e a queste Olimpiadi partecipa anche il giovane protagonista della nostra puntata, il maratoneta coreano Ki Chun-Son, che entrerà nella storia, ma non solo per le sue performance sportive, sarà il primo coreano a vincere un oro olimpico, ma anche per il suo comportamento, per la determinazione con la quale ha difeso la sua patria, che è la Corea. Ki Chun-Son è il primo atleta coreano che diventerà protagonista di un'Olimpiade per vari motivi. Intanto per le sue incredibili doti atletiche, anche se nessuno ne aveva mai sentito parlare, perché è uno sconosciuto che arriva dalla lontana Asia orientale, però in realtà non è un outsider, perché lui aveva corso per tutta la sua vita, fin dall'infanzia. Era nato il 29 agosto 1912 a Sinuju, che è una, diciamo, una cittadina della regione del Pyongyang, oggi parte della Corea del Nord, peraltro. Quando nasce lui, la Corea è un paese unico, e la divisione tra Corea del Nord e Corea del Sud avviene alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e in questo periodo se ne parla parecchio. Ma quando il nostro protagonista viene al mondo, la Corea non è uno stato indipendente, è una colonia dell'impero giapponese, e rimarrà sotto, diciamo, il giogo dell'invasore fino al 45, quando la sconfitta del Giappone libererà, diciamo, tutte le terre occupate dal Giappone. E nel frattempo, nel momento in cui raccontiamo la nostra storia, per Ki Chun-Son, così come per tutti i coreani, i giapponesi sono gli invasori, gli occupatori, i nemici. Per lui la corsa è la parte determinante della sua vita. Potersi spostare velocemente da un luogo all'altro gli permette di sopravvivere, perché fin da piccolo deve aiutare la famiglia, che è povera, quindi fa lavori saltuari qua e là, fa consegne da una parte all'altra tutto il giorno. Insomma, tutto quello che fa lo fa correndo. Ho sempre corso, fin da bambino. Per me era inconcepibile camminare. Se dovevo andare da qualche parte, ci andavo sempre e solo correndo. A 16 anni trovai un lavoro a Dandong, in Cina. Ogni giorno percorrevo la distanza da casa al posto di lavoro, che erano 8 chilometri, di corsa. E alla sera lo stesso. Tornavo a casa correndo, perché non avevo certo i soldi per i mezzi di trasporto. Insomma, Ki Chung corre più per necessità che per scelta. È la storia che ricorda un po' quella di un grandissimo maratoneta a cui abbiamo dedicato una puntata un po' di tempo fa, l'etiope Abebe Bikila. Anche lui usava le gambe per spostarsi, così come noi usiamo la macchina. Però è evidente a tutti che Ki Chung, anche se non lo sta facendo per passione, almeno all'inizio, corre forte, corre come il vento, ha una falcata da campione e sembra predisposto naturalmente alle lunghe distanze. Così quando a 12 anni comincia a gareggiare, a vincere, vince la famosa corsa Anhui, che si svolge sulla distanza di 5 km tra le città di Sinuju e di Antung, e comincia a frequentare il liceo Yanggyeong di Seul, che è famoso in tutto il paese per la sua squadra di corsa sportiva. E proprio negli anni del liceo lui affina la sua tecnica di corsa, getta le basi per la sua attività futura, che sarà quella del maratoneta. Fra il 33 e il 36, quindi tra i 21 e i 24 anni, Ki Chun-Son vince 10 delle 13 maratone a cui prende parte, sia in Corea che in Giappone, e nelle tre che non vince sale comunque sul podio. Insomma, è un atleta di grande livello, è molto completo, ha prestazioni costanti, arrivano risultati importanti. Il 3 novembre del 35 a Tokyo ottiene il record del mondo della maratona, 2 ore 26 minuti e 42 secondi, un record, pensate, che rimarrà imbattuto fino al 46, e verrà battuto da un altro maratoneta coreano, Yoon Bok-soo, che era suo allievo, allenato personalmente da lui, un altro coreano che vincerà la maratona di Boston col tempo di 2 ore 25 minuti e 39 secondi. Così Kim Chun-sun si guadagna la presenza nella squadra olimpica che parteciperà alle Olimpiadi, all'Olimpiade Perfetta. E il record del mondo è il suo, ma lui è sconosciuto a tutti, anche agli addetti ai lavori. È un atleta dell'Estremo Oriente, gli occhi sono puntati su altri campioni provenienti dai paesi più vicini, diciamo, il fortissimo minatore Ernest Harper, pluricampione dell'impero britannico. Poi c'è il campione uscente, un argentino, si chiama Juan Carlos Zabala, che aveva vinto a Los Angeles nel 32 un maratoneta micidiale. Ma lui, Kim Chun-sun, non è preoccupato da questo, non ha paura dei suoi avversari, c'è qualcos'altro che lo tormenta. Kim Chun-sun ha un peso sul cuore perché lui è coreano, orgoglioso di essere coreano, però alle Olimpiadi deve partecipare come membro della delegazione giapponese. Ha perfino un nome giapponese, viene registrato a Berlino col nome di Kitei-sun, che è la pronuncia giapponese dei caratteri con i quali si scrive il suo nome in coreano. Insomma, un vero e proprio sopruso, lui lo vive come tale. Il governatore giapponese della Corea ovviamente non permette agli atleti coreani di partecipare alle Olimpiadi come membri del loro paese. Così per Kim Chun-sun c'è una bandiera del sollevante che gli viene appuntata a forza sulla divisa olimpica ed è per lui un marchio di infamia, lo fa soffrire come se gliel'avessero cucita direttamente sulla pelle. I giapponesi ci avevano oppressi, avevano negato le nostre tradizioni, imposto il silenzio ai nostri canti, ma non erano riusciti a fermare la mia corsa. Mi ripetevo ogni giorno, ogni ora e ogni metro che correvo per il mio paese e che prima o poi questo mi sarebbe stato riconosciuto. Naturalmente sarete d'accordo con me che uno dei momenti più toccanti delle Olimpiadi è quello della cerimonia di premiazione, quando gli atleti sul podio, oltre a ricevere le medaglie, sentono risuonare l'inno del loro paese mentre viene issata sul pennone la loro bandiera. Io per esempio sono uno di quelli che si mette a piangere, si commuove nelle premiazioni alle Olimpiadi, anzi più il paese è piccolo e più mi commuovo, come potete vedere se ci capiterà di vedere le Olimpiadi assieme, magari singhiozzare per un bielorusso o per un thailandese. Però questo è un privilegio, il privilegio di vedere alzare la bandiera di un paese che molti atleti si sono visti negare nel corso degli anni per motivi diversi, generalmente per questioni politiche. Kim Chun-sun naturalmente non sa ancora se vincerà qualche medaglia, quello che sa per certo è che in nessun caso qualcuno saprà mai che lui è coreano e non giapponese, questo non gli va giù. La federazione giapponese iscrive un terzetto alla gara della maratona. Oltre a lui c'è un giapponese puro che si chiama Tamao Shivaku e poi c'è Nam Sung-yong, anche lui coreano come il nostro protagonista, che è costretto anche lui a gareggiare con un nome giapponese, Nan Shoryu. Loro sono il vanto dell'imperatore del sollevante, che peraltro è un fiero alleato politico di Hitler nel conflitto mondiale che sta per scoppiare. Roberto, Roma, Berlino, Tokyo, l'asse. E la maratona vedrà schierati 56 atleti in rappresentanza di 27 paesi, ma di questi solo 42 riusciranno a completare il percorso micidiale, lo sapete, 42 km e 195 metri. E quella di Berlino sarà una delle maratone più appassionanti di tutti i tempi. Il risultato sarà sorprendente e inaspettato e con dei risvolti tenuti segreti per decenni. Il nostro protagonista di oggi è il grande maratoneta coreano Kim Chun-sun, che nel 36 alle Olimpiadi di Berlino vive il suo grande momento, il suo colpo d'ala, ma lo vive in una maniera terribile. Perché la Corea, che è stata invasa nel 1910 dal Giappone, gareggia con i colori del sollevante e lui, contro la sua volontà, viene costretto a indossare la divisa del suo invasore, sulla quale fa bella mostra il cerchio rosso della bandiera giapponese. Kim Chun-sun non si arrende all'idea di correre con i colori dei suoi invasori, dei suoi carnefici. Durante i giorni berlinesi parla a tutti del suo paese oppresso. Accanto all'autografo che molti gli chiedono, lui disegna la silhouette della sua penisola, della Corea, e spiega che lui è coreano. Però i giornalisti, lo sapete come sono, non si interessano a questa storia, già allora si preferiscono storie che fanno cassetta, che fanno ascolti, diremmo oggi. Insomma, sono occupati da ben altro in quell'Olimpiade che è così piena di avvenimenti politici. Insomma, è un'Olimpiade molto delicata, molto particolare. E qualche giornale comincia timidamente a scrivere di lui, ma lo fa per commentare il suo stile incredibile che viene fuori durante gli allenamenti. La corsa di Son è leggera, è caratterizzata da un lirismo orientaleggiante. Sembra uno stormire di frasche, ma sa anche essere penetrante come una lama e rapida come il tuffo di uno sparviero. Insomma, i giornalisti tedeschi, più che parlare delle doti tecniche e sportive del coreano, sottolineano la sua origine. Scrivono la sua corsa è caratterizzata da un lirismo orientaleggiante. Naturalmente glissano su tutto il resto. Probabilmente c'è un intento preciso di sorvolare sul dramma degli atleti coreani che devono gareggiare con i colori dei loro invasori nipponici per questioni politiche. Ovviamente, insomma, un giornalista tedesco non si va a immischiare di cose del genere. E ci sono delle proteste dei coreani, ma loro vengono considerati a tutti gli effetti dei giapponesi, devono partecipare come tali. Quello che sta per succedere però è destinato a essere ricordato per sempre negli annali sportivi, nella storia delle Olimpiadi. Stiamo parlando di uno dei risultati più sorprendenti mai ottenuti. Kim Il-sung riuscirà a far parlare di sé, della sua condizione, usando come strumento quello che sa fare meglio: correre. La maratona olimpica di Berlino si disputa il 9 agosto del 36 su un percorso diverso dal solito, nel verde, per offrire il refrigerio agli atleti in quella giornata estiva. Lo scenario è perfetto per i giochi di luce e di ombra che ha architettato personalmente Leni Riefenstahl, la regista che usa la macchina da presa con sapienza unica e irripetibile. E le parti sulla maratona sono meravigliose in quel film, comunque meraviglioso, che Olimpia della Riefenstahl. Se cercate su YouTube trovate una sintesi di una decina di minuti della gara, vi assicuro che se amate l'arte merita, non solo per la magia delle riprese ma anche perché il dramma degli atleti partecipanti è tangibile, la fatica e il sudore sono reali, è tutto bello quel film e quella parte. L'esito peraltro di questa maratona sarà sorprendente, riceverà emozioni che valicheranno nei confini del tempo e dello spazio. Kim Il-sung vive con grande dispiacere questo obbligo che i nemici della sua patria gli impongono. Cerca di attirare l'attenzione dei media sulla problematica degli atleti coreani e peraltro, insomma, sono casi che si ripeteranno negli anni. Oggi, se parlate con un catalano, vi dirà che è molto infastidito dal fatto di doversi battere per la maglia spagnola che lui non riconosce, o i baschi, o insomma ci sono tanti popoli che si sentono non rappresentativi della bandiera o della maglia che devono indossare. Probabilmente il mondo un giorno andrà incontro a un grande frazionamento. I giornalisti dell'epoca sono concentrati su altri temi, lo sapete, tanto Hitler, che ha imbastito la sua operazione di propaganda, che sta usando sapientemente i giochi olimpici per veicolare i valori, l'estetica del nazismo, il tutto architettato dal ministro della propaganda Goebbels. Non interessa il fatto che c'è un oscuro maratoneta coreano che arriva dall'estremo oriente, che firma i suoi autografi con a fianco la sua penisola martoriata dagli anni di oppressione giapponese. Non fa notizia, non deve fare notizia, al limite viene visto come un eccentrico, non come un patriota. Questo è quello che sta per trasparire sulla storia di Kim Il-sung. Ma arriviamo a quel 9 agosto del 36, la giornata, l'abbiamo detto, è torrida, sta partendo la maratona, che è uno dei momenti più faticosi, più estremi, ma anche uno dei momenti più attesi di tutta l'Olimpiade. Maraton Lauf, Gigante sto povero Eracleto. Dopo i primi chilometri il gruppo comincia a sgranarsi, cominciano a emergere i valori. Alla fine rimangono in tre i due super favoriti che abbiamo già citato, Ernest Harper e Juan Carlos Zabala, e poi lui, il nostro protagonista, il coreano Ki Chun Son, che però i commentatori definiscono giapponese. La gara è durissima, ma la maratona è sempre una gara durissima, soprattutto d'estate. Arrivano la fatica, il dolore fisico, la mancanza di energia, rimane solo la testa che dice di andare avanti nonostante tutto. A un certo punto accade un fatto imprevisto: al 28esimo chilometro il super favorito, il campione uscente, l'argentino Zabala, non ce la fa più. Forse Zabala è partito troppo forte, ha caricato troppo, vuole fare il bis dopo la vittoria alle Olimpiadi di Los Angeles, ha preso due minuti di vantaggio, ha voluto strafare, e la maratona è una specialità nella quale devi sapere dosare l'energia, devi saper conoscere il tuo corpo, quindi il ritmo comincia a scemare, non riesce a mantenerlo quel ritmo, e dal 25esimo chilometro l'andatura si riduce, poi l'atleta è costretto a fermarsi sotto un albero che costeggia il percorso. È scoppiato, le immagini immortalano tutta la sua tragedia. E in testa a quel punto rimangono in due, Ernest Harper e Ki Chun Son. È una sfida che si preannuncia all'ultimo sangue, perché i due sono atleti molto forti, sono determinati a vincere, nessuno dei due vuol mollare. Siamo a Berlino 1936, due atleti stanno correndo sotto al caldo per andarsi a prendere la medaglia d'oro dell'Olimpiade perfetta. Ernest Harper e Ki Chun Son, i due sono appaiati, non si riesce a capire chi dei due riuscirà a prendere il sopravvento sull'altro. E poi a un certo punto arriva quello che noi definiamo il colpo d'ala. Ki Chun Son comincia una progressione, trova delle nuove energie e piano piano l'avversario viene staccato, poi distanziato, e poi l'abisso, il solco diventa di oltre due minuti, e alla fine il 24enne coreano Ki Chun Son entra per primo nell'Olympia Stadium e va a vincere 2 ore 29 minuti e 19 secondi, un tempo fantastico, record olimpico. L'inglese arriva due minuti dopo. È il terzo a entrare all'Olympia Stadium, è un altro coreano, Nam Sun-yong, ma anche lui entra con la maglia giapponese e infatti è anche ribattezzato Nam Shoryu. Avete sentito? Japan! Se andate a guardare il filmato di quella premiazione sarete commossi dall'atteggiamento degli atleti coreani. Ki Chun Son e il suo collega non alzano mai lo sguardo, tengono tutto il tempo la testa bassa, anche se hanno in testa l'alloro olimpico, anche se hanno vinto uno primo, uno terzo, sono tristi, stanno soffrendo. Il campione non si dà pace, non vuole regalare quella medaglia al suo invasore, non può sopportare che l'oro venga assegnato proprio ai suoi nemici. L'inno giapponese è un suono insopportabile per le sue orecchie, e la bandiera con il sollevante che viene innalzata vittoriosa fa male alla sua vista. Lui, in un gesto estremo, nasconde con l'alloro la bandierina riprodotta sulla sua uniforme sportiva. E per farvi capire quali sono i rapporti tra l'invasore giapponese e la popolazione coreana, pensate che il quotidiano coreano Dong-Ha-bo pubblica le foto dei suoi eroi sul podio. Siccome l'altro atleta arrivato terzo non ha avuto la prontezza di spirito di Ki Chun Son, cioè non ha coperto la bandiera giapponese, i grafici del giornale la cancellano dalle foto. Bene, il governo coloniale nipponico li punisce per un affronto così esplicito, vengono arrestati gli 8 responsabili del quotidiano, vengono condannati al carcere duro, la pubblicazione del giornale viene sospesa per 9 mesi. Ki Chun Son diventa in patria un eroe nazionale, e non solo per i suoi meriti sportivi, ma soprattutto per il suo comportamento sul podio di Berlino e per le coraggiose dichiarazioni rilasciate alla stampa internazionale, nelle quali non si è mai stancato di ribadire la sua nazionalità coreana e il suo disprezzo per il giogo giapponese. Diventa un simbolo, il simbolo del riscatto. Dopo Berlino lui continua a correre, si iscrive all'università, si laurea nel 40, poi il suo paese rinasce perché nel 45 lui ha 33 anni e nel 45 il Giappone deve capitolare. Kim Il-sung vive a Seul, in quella che diventa per sua fortuna la Corea del Sud, insomma la parte libera del paese, e decide di dedicarsi a allenare i giovani. Ricoprirà per anni molte cariche sportive di prestigio, compresa quella di presidente dell'Associazione Coreana delle Federazioni Atletiche, quella di membro del Comitato Olimpico Coreano. E viene ripagato in qualche modo per il suo dolore, per la frustrazione che ha provato in quella incredibile giornata berlinese del 36. E per esempio sarà lui a sventolare la bandiera coreana nella sfilata del 48 alle Olimpiadi di Londra, e porterà la torcia nello stadio olimpico di Seul 40 anni dopo, nel 1988. Ed è suo il nome che compare su un monumento che viene dedicato agli eroi della maratona in California, il simbolo di un patriottismo che non si piega di fronte a niente. Poi però lui deve anche vivere un altro incredibile momento, un momento legato al misterioso elmo greco del quale vi ho parlato in apertura di puntata. Questo preziosissimo oggetto viene inviato nel 36 al comitato organizzativo delle Olimpiadi dal giornale sportivo greco Vradini, perché venga offerto in dono al vincitore della maratona. Il Comitato Olimpico però deve far rispettare delle regole che ai tempi impedivano agli atleti di ricevere qualsiasi forma di remunerazione. Non consegna l'elmo a lui, che è del tutto ignaro della vicenda. Lo dona al Museo delle Antichità di Berlino, dove rimane per 50 anni. Riesce anche a salvarsi dai raid aerei e da tutti i bombardamenti che distruggono la città. Poi casualmente viene alla luce questa vicenda verso la metà degli anni Ottanta. Finalmente, nel 50° anniversario della vittoria della medaglia, il 10 agosto 1986, Kim Il-sung riceve il prezioso oggetto dal presidente del Comitato Olimpico della Germania, Willy Daume. Che storia e che tempi! La vicenda è emersa in tutta la sua complicazione di regolamenti vari, ma sono fatti sui quali oggi si può sorvolare. Gli amici greci ci hanno fatto sapere che non hanno desiderio che l'oggetto gli venga restituito, ma che al contrario vada a colui al quale era stato destinato in origine. Quindi è a lei, Kim Il-sung, che va restituito con i nostri migliori auguri. Insomma, Kim Il-sung riceve, anche se con 50 anni di ritardo, un oggetto dal valore inestimabile che potrebbe renderlo immensamente ricco. E lui però, in linea col suo personaggio, fa un altro colpo d'ala veramente nobile, meraviglioso, perché decide di regalare quell'elmo al Museo Nazionale della Corea di Seul. Così il 7 marzo dell'87 questo preziosissimo elmo diventa uno dei tesori nazionali di quel museo. È un reperto dal valore incalcolabile, non solo per l'oggetto, ma anche perché rappresenta il turbolento passato della nazione coreana e il suo riscatto, la sua liberazione, che è avvenuta anche tramite una corsa, una meravigliosa maratona. Kim Il-sung prosegue nella sua vita fino al 2002, muore a 90 anni, lasciando intatto nell'animo dei suoi conterranei, di tutti gli sportivi del mondo, il ricordo di quel ragazzo che voleva semplicemente correre con la maglia del suo adorato paese. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e che magari lo hanno dato soffrendo, un colpo d'ala che per loro in quel momento è stato incompleto, ma che, come nel caso di Kim Il-sung, hanno vissuto un tardivo ma bellissimo riscatto ancora da vivi, diciamo così. Kim Il-sung ha potuto godere del suo trionfo, della liberazione del suo paese. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito radio24.it, venite a trovarmi, a trovarci nei miei, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.